I numeri innanzitutto, i contagiati sono più di 6.300, le vittime 366, più di 600 i guariti. Il fine settimana ha portato, come sapete, un provvedimento drastico per contenere l'espansione di Covid-19, l'allargamento delle zone di contenimento all'intera Lombardia, metà dell'Emilia-Romagna, 3 province venete e una delle Marche. Norme varate in un'estrema confusione tra sabato e domenica e che hanno lasciato molti interrogativi aperti e centinaia di persone su treni e auto in viaggio per tornare a casa al sud, dove per loro scatta la quarantena. Nelle carceri le nuove regole sulle visite e sull'attività dei volontari hanno scatenato rivolte a Modena, dove si contano 3 morti, a Pavia, dove sono stati presi in ostaggio 2 agenti. Il fronte economico ci racconta di una borsa di Tokyo che questa mattina perde oltre il 6%. In tutto ciò, il mondo del calcio non ha di meglio da fare che litigare col ministro Spadafora, il quale sostiene che il campionato va fermato. Ieri si è giocato in uno stadio vuoto, la Juve si è ripresa la testa della classifica, battendo l'Inter 2-0. Ma questa cosa ha senso? Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, le 6:30 minuti di questo lunedì 9 marzo. L'inizio di una settimana complicata, per tutti noi. Lo è oggettivamente, con questo weekend strano nel quale sono filtrate prima delle notizie sulla Lombardia che sarebbe diventata zona rossa, poi non è propriamente così, una zona di contenimento, una zona arancione adesso la chiamano. E però la cosa ha scatenato un po' di panico. Considerate che la conferenza stampa del Presidente del Consiglio sabato sera è stata alle 2 di notte per darvi la misura della confusione. Con alcune regioni che sono contrarie a questi nuovi provvedimenti presi, che in parte sono provvedimenti, in parte sono sostanzialmente delle prescrizioni. Con tutto un mondo che adesso passa per un mondo di irresponsabili che ha preso il treno, ha preso la macchina ed è andato verso il sud. Dicendo prima che chiudano tutto, me ne vado. E le regioni del sud che dicono no, a questo punto dovete stare in quarantena, ma ragazzi, si chiudono le stalle quando i buoi sono scappati, perché sono giorni, settimane che le persone partono dal nord per tornare al sud. Non è di oggi, c'è stata solo un'esplosione sabato sera. I numeri ve li abbiamo forniti, sono quelli che sono: 6.300 contagiati, siamo a 366 vittime. E un fronte preoccupante che si sposta sugli ospedali, su quanti posti ci sono per la terapia intensiva, quanti posti ci sono per le persone che manifestano sintomi anche gravi. E alcuni medici che iniziano a dire: dobbiamo scegliere, a un certo punto dovremo scegliere, cioè o si aumentano i posti in terapia intensiva, respiratori, le condizioni di lavoro, a un certo punto dovremo scegliere se lasciare andare delle persone. E soprattutto, dicevo, un po' di confusione complessiva. 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. Fate sentire la vostra voce in questi giorni, sempre ce n'è bisogno. Raccontateci come vanno le cose, come la state vivendo, se siete nelle zone di contenimento, se non ci siete, se avete la famiglia da un'altra parte, non sapete come fare. Se vi siete spostati da nord a sud e avevate delle esigenze particolari, se non ce la fate, se non vi sentite di essere chiamati degli irresponsabili. Dai, vi aspetto. Così come vi aspetto su Facebook, siamo in diretta video sulla pagina di Radio 24 e su quella di 24 Mattino. Siamo su Twitter, su Instagram e ci sono come sempre Carmelo Lauricella, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Siamo sempre qua, sperando che, insomma, non ci succeda come alle Iene, che a un certo punto c'è uno malato in redazione e il programma chiude per due settimane. Comunque dovremmo avere gli strumenti per andare in onda comunque, se tutto va bene. Allora, si diceva, il problema dei posti letto, delle terapie intensive, ha a che fare in questo momento soprattutto con la Lombardia, che è naturalmente la regione più colpita. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Altro dato che volevo dare è questo del tema delle strutture sanitarie e in particolar modo della criticità che gli ospedali della Regione Lombardia stanno affrontando in termini di capacità di assistenza per le terapie intensive e subintensive. Attraverso il sistema della CROSS, come vi dicevo ieri, abbiamo già trasferito ed è in corso di trasferimento, 13 pazienti sono in corso di trasferimento nelle altre regioni, le regioni limitrofe, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Un ascoltatore o un'ascoltatrice mi scrive: è il caso di sottolineare la confusione usando questo termine? Avrei voluto vedere te al governo, ma guarda che non è questo il punto. Dico semplicemente che non sappiamo come siano filtrate le notizie. Questo sarà un elemento importante da capire, sulla base della confusione di sabato. Chi ha fatto filtrare questa bozza di decreto? L'hanno fatta filtrare dal governo? L'hanno fatta filtrare dalle regioni? Questo non è ancora chiaro. Detto ciò, la confusione c'è ed è oggettiva, nel senso che ci sono stati momenti nelle 48 ore scorse e forse ancora oggi nel quale la gente non sa: vivo a Bergamo, posso uscire a fare la spesa oppure no? E quante volte posso uscire a fare la spesa? Posso andare a passeggiare? Se voglio fare sport, posso andare a correre al parco? La raccomandazione generale è non uscire di casa, ma entro quali limiti? Posso andare al lavoro? Se sì, con cosa? Scopriamo oggi con un'autocertificazione. Lo scopriamo oggi però. E quindi capisce che, insomma, la confusione oggettivamente c'è stata e adesso saranno necessari chiarimenti. Li daremo a partire dalle 8:20, avremo con Maria Latella il viceministro all'interno, Matteo Mauri, poi sarà nostro ospite il viceministro all'economia Misiani, perché poi c'è l'altro fronte, quello economico naturalmente. Però che un po' di caos ci sia stato è indubbio e bene non fanno, se vogliamo dirle due cose, da una parte la confusione comunicativa dello Stato centrale, dall'altra parte le questioni che stanno sollevando le regioni, che dicono no, il decreto così com'è non ci va bene, lo dice soprattutto il Veneto con Zaia. Quindi capite che non è facile. La situazione degli ospedali in Lombardia, l'assessore Gallera. La tensione, io ho visto uomini primari, professori universitari di 70 anni piangere ieri, ho visto primari che sono venuti da noi dire: ci troviamo in una situazione difficilissima nei nostri ospedali perché siamo al limite di offrire a tutti le cure giuste che facevamo 20 giorni fa o un mese fa. E certo, tutto questo, quello che sta succedendo in questa larga zona di contenimento, ci mette alla prova l'ascoltatore che per esempio ci dice: io ho 3 figli grandi a Lecco, io sono in Francia, se vado in Italia e torno finisco in quarantena, loro non possono venire da me, come la mettiamo? Caro Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, direttore editoriale del Quotidiano Nazionale e direttore del resto del Carlino, Michele, una grande prova, buongiorno. Buongiorno. Che dici? Sì, stiamo vivendo una grande prova, non siamo molto abituati perché siamo la prima generazione che non ha fatto la guerra, abbiamo vaghi ricordi del terrorismo, ma qua se abbiamo un nemico ancora più insidioso del terrorismo, che erano uomini in carne e ossa, questo è un microbo invisibile che ci spaventa tantissimo. Dobbiamo accettare un momento di sospensione dalla comfort zone in cui eravamo abituati a vivere, e però è giusto pretendere che ci sia una lotta efficace a questa situazione e non la confusione di cui parlavi, che c'è stata indubbiamente e che va eliminata più presto con delle misure chiare, efficaci, e non con delle raccomandazioni, delle esortazioni o degli appelli al buon senso. Quelli non sono compito di uno Stato. Lo Stato deve imporre le regole e prevedere le sanzioni, fare rispettare. Sì, è vero anche, Michele, dall'altra parte, per così dire, di scolpa a fronte di questa confusione, che siamo la prima democrazia ad affrontare una situazione di questo genere, nel senso che la Cina ha potuto prendere quei provvedimenti drastici che ha preso anche perché è il paese che è un paese nel quale oggettivamente c'è un regime, e quindi determinate imposizioni sono più facili da prendere, cioè da noi è oggettivamente diverso. Io mi ricordo una frase che disse Andreotti al tempo delle Brigate Rosse: non crediate che la democrazia non sappia essere dura quando è necessario. La democrazia deve essere ragionevole. Quando c'è esigenza di un giro di vite, il giro di vite lo si fa. Perché democrazia vuol dire governo del popolo, il popolo nel suo interesse va governato anche a tutela della salute quando è il caso, quindi altrimenti è anarchia, altrimenti è assemblearismo. Io trovo allora assurdo, visto che parliamo di democrazia, che non si siano consultati i presidenti delle regioni che vivono questa emergenza. Si è fatto un decreto barzelletta mandato in giro alle 8 di sera con una bozza, poi una conferenza stampa quando gli italiani dormivano, e con così delle esortazioni vaghe, indefinite, non si capiva chi poteva uscire di casa per andare a lavorare, chi no, e non si capiva se ci sono sanzioni. Tutto questo non è sufficiente, e io spero di essere smentito, ma se nei prossimi giorni i contagi aumenteranno al ritmo degli ultimi due giorni, avremo una situazione drammatica e dovremo sospendere tante delle nostre garanzie di cittadini di un paese democratico. Dovremo imporre delle cose molto dure, ma del resto già ordinare i ristoranti di chiudere la sera è un po' una sospensione della democrazia, perché una democrazia uno apre quando vuole, ma si impone una cosa per un bene superiore. Sì. Per un interesse collettivo. Sì. In Cina ci dimostrano che con misure draconiane si è fermato il contagio. Sì. Mi permetto di dire dall'altra parte, e qua qualche ascoltatore ce lo fa notare, dice: no, sì, è vera la confusione, è vero che le cose si chiariranno nelle prossime ore, ma soprattutto qua c'è un grande appello alla responsabilità personale, la responsabilità individuale dei cittadini, di come si comportino. Insomma, sabato abbiamo visto delle immagini da Milano che, per come la vedo io e per come è la situazione, gridavano vendetta, cioè gente affollata a fare l'aperitivo, a pranzare fuori al sole, in giro. Insomma, non è, su questo dobbiamo essere molto chiari, questa non è una situazione normale, va bene? E qua ci dicono: dai un tono ansiogeno. Ragazzi, non è una situazione normale, ma ve ne rendete conto da soli, insomma, dai provvedimenti che vengono presi, e quindi così è. Allora, sul tema del decreto, Luca Zaia, il presidente del Veneto. Noi abbiamo avuto il decreto formalmente quando tutti ce l'avevano. Non lo dico, non è l'esamestra, cari signori, non è l'esamestra. Il problema è che un decreto così importante in bozza andrebbe secretato, andrebbe elaborato, andrebbe osservato, e dopodiché, per evitare psicosi, panico o quant'altro, andrebbe diffuso quando è strutturato, consolidato, definito e soprattutto anche deciso come deve essere comunicato. Cioè, oggi voi vedete che avete un sacco di persone che vi chiedono: ma le merci possono circolare? Ma io devo andare a lavorare, ci posso andare? Il punto è esattamente questo, il punto è esattamente questo. Poi questa fuga verso il mezzogiorno di persone che a un certo punto hanno detto: se chiudono la Lombardia voglio tornare a casa. E i presidenti del sud che dicono: dovete stare in quarantena, dovete stare in isolamento. De Luca, il presidente campano. C'è stata, come dire, la corsa a prendere treni, aerei, autobus per rientrare nei territori del sud. Allora abbiamo dovuto prendere un provvedimento di questo tipo che è contenuto nella mia ordinanza. Quelli che arrivano dal nord, dalle regioni a rischio, devono andare in isolamento domiciliare per motivi prudenziali, quindi per 2 settimane devono rimanere in isolamento domiciliare. De Luca ci ricorda anche una regola base che qualcuno ha ignorato a proposito di responsabilità individuale e responsabilità personale: se stai male, non andare al pronto ancora a voce ancora più alta, se stai male non andare al pronto soccorso. Sentiamo De Luca. Per questi nostri concittadini, ma anche per tutti gli altri, quando c'è un sintomo, tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, o anche quando non c'è un sintomo, ma si proviene dalle zone più a rischio, bisogna segnalare la propria presenza in isolamento domiciliare al medico di famiglia e poi si valuta. Quindi non andiamo ai pronto soccorsi anche quando abbiamo sintomi. Parliamo prima con il medico di medicina generale e decidiamo insieme il da farsi. Eh già, traffico. I dessert in menù sono tiramisù, tortino dal cuore caldo, semifreddo alla marena e tartatin congelato. Cosa desidera? Tutti. Grazie. Per chi non vuole rinunciare a nulla, nasce la nuova Fiat Tipo More. Più stile, più tecnologia, più sport. Scopri nuova gamma Tipo More con finanziamento anticipo 0 e 5.000 euro di extra bonus. Solo a marzo, Tipo Street More tua da 12.500 euro e prima rata a settembre. TAN 6,45 TAEG 882, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 marzo. Info su fiat.it. Mattino. Ci sono ovviamente molte domande, no? Anche su quello che succede. Sì, è possibile entrare e uscire dalle zone arancioni? È possibile per motivi di salute o di lavoro? Ci vuole un'autocertificazione. Nelle zone arancioni, appunto, in queste zone di contenimento, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 e devono poter conservare la distanza. Possono stare aperti solo dalle 6 alle 18 e tenere la distanza, sapere assicurare la distanza di un metro tra chi arriva, tra gli utenti, no? Le merci non si fermano nemmeno i frontalieri. Oggi iniziamo ad avere dunque un po' di chiarezza su tutto questo. Intanto, come si diceva, c'è preoccupazione, un po' di preoccupazione per quello che succede negli ospedali. Ausilia Pulimeno è vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche. Buongiorno Pulimeno, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, come vanno le cose innanzitutto? Domanda volutamente generale per avere un'idea da voi. Ma da noi, io parlo a livello nazionale, soprattutto ovviamente nelle zone che le definisce arancioni, insomma. Chiaramente io parlo per gli infermieri, ma tutti gli operatori sanitari sono veramente in una situazione di stress pazzesco. Anche se stanno dando veramente il meglio di sé, al di là proprio della professionalità indiscussa che dimostrano negli interventi, e sia medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari stanno lavorando assolutamente con grande professionalità e questo lo stanno dimostrando. Sì, questo non lo mettiamo in dubbio, Pulimeno. Questo non solo lo mettiamo in dubbio, ma li ringraziamo naturalmente perché è una fase di super lavoro per tutti loro e quindi insomma massimo rispetto per quello che stanno facendo. Ma in termini di personale e di dotazioni, come siete messi? Ma in termini di dotazioni già eravamo messi molto male in precedenza, perché cioè io adesso non voglio approfittare di questo momento ma lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto già in tempi non sospetti, ovviamente dichiarando una grande difficoltà da parte del personale infermieristico di continuare ad avere una certa professionalità considerando i numeri, considerando le dotazioni organiche. E questo noi abbiamo valutato che in realtà sul nostro territorio mancano 50.000 infermieri, di cui prevalentemente cioè 30.000 circa sul territorio, 20.000 circa negli ospedali. Quindi detto questo, è chiaro che già si era sotto stress. Questa è una situazione paradossale, ovviamente, dove poi tutti veramente stanno dimostrando appunto c'è un grande spirito di abnegazione, ma dove si rende ancora più evidente la carenza. E stanno provando con misure chiaramente per risolvere in qualche modo il momento critico, ma ovviamente sono delle misure che porteranno a poco. Io sto sentendo dei colleghi e soprattutto della zona rossa che evidentemente stanno veramente scoppiando. Io ieri sera ne ho sentiti alcuni che hanno mandato dei messaggi di aiuto vocali, cioè della serie che non riescono più a resistere a questo forte stress, a questo grande cambiamento, ovviamente anche di stile, anche di organizzazione, che sono veramente all'impronta. Ovviamente, come siamo abituati a fare. Sì. Senta, dal lato delle dotazioni tecniche, Pulimeno, tecniche sì. Intendo mascherine, tutte queste cose qua. Questo è un grande problema. Questo è un grande problema perché di fatto ci dispiace che anche il DPCM uscito ieri, e quindi con le misure di contenimento, quindi la riorganizzazione, di fatto neanche ne parla. Per cui insomma. Questo è un qualcosa che in qualche modo ci preoccupa fortemente e di fatto i colleghi si trovano in enorme difficoltà, per cui insomma già erano a rischio, oggi lo sono ancora di più, e veramente con difficoltà a marginare insomma il rischio loro, ma anche delle persone, ovviamente dei loro familiari, perché teniamo conto che questi sono operatori sanitari. Premesso che riescono ad andare poco a casa, ad avere poca modalità per potersi riposare, ma che di fatto mettono a rischio loro stessi, e veramente con tutta la contezza di questo, ma sì. Mettono a rischio anche i loro familiari, certo. Ovviamente. Allora, io la ringrazio. Grazie a Ausilia Pulimeno, vicepresidente della Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche. A chi dice che qua stiamo facendo dell'allarmismo, guardi, non è allarmismo, stiamo descrivendo quello che è un allarme, cioè non stiamo facendo allarmismo, stiamo raccontando quello che è un allarme. Allora, cosa succede? Succede semplicemente che in questo momento bisogna fare in modo che, e a questo servono queste misure, a questo serve che la gente stia in casa in queste zone, serve a far sì che la curva, per così dire, di risalita, l'impennata dei contagi si appiattisca, per far sì esattamente che gli ospedali non vadano sotto stress. L'elemento è esattamente questo, cioè quello che ci rappresenta Ausilia Pulimeno non è un non ce la facciamo, è ce la facciamo con difficoltà, e però ci vuole la collaborazione di tutti i cittadini che su questo fronte esattamente, sul far sì che il contagio non si estenda troppo, perché una certa percentuale di persone che finisce in rianimazione o in respirazione assistita c'è. Ed è questo che deve un po' preoccupare, è questo da tenere presente. Michele, ancora una volta il richiamo a quella che è la responsabilità individuale, cioè i nostri comportamenti, cioè a prescindere da quello che decide il governo, dal fatto che tu possa mettere la polizia all'ingresso delle zone arancioni e via dicendo, è un grande richiamo ai nostri comportamenti questo. Sì, sì, questo è l'editoriale che è uscito ieri sul mio giornale che ho scritto io e in parte l'ho ripreso oggi. Io detesto quelli che pretendono che siano sempre gli altri a risolvere i problemi, lo Stato, la politica, il governo, eccetera. Dobbiamo tutti noi dare il nostro contributo e con comportamenti responsabili per fermare questa epidemia. Quello che volevo dire prima è che quando però c'è qualcuno che non si comporta in modo responsabile e deve essere fermato in modo chiaro. Quindi lo Stato fa benissimo, il Presidente della Repubblica fa benissimo a fare appelli alla responsabilità di tutti noi, noi giornalisti facciamo benissimo a ripeterli, però poi ci vogliono provvedimenti secondo me più duri. E faccio un esempio banalissimo. Sì, vai. Cioè, a me sembra assurdo che da ieri non ci sia più la zona rossa a Codogno, ma mi spiace per i cittadini di Codogno che mi odieranno in questo momento, però si sono allentate le misure nella zona da cui è partito il focolaio. Quelle misure molto dure con l'esercito che faceva i posti di blocco hanno ridotto i contagi, senza essere in Cina, Simone, senza fucilazioni, ma l'hanno ridotte. Adesso i cittadini di Codogno, io spero che siano tutti responsabili, ma se persone che non hanno ancora la certezza di non poter più contagiare nessuno se ne vanno a Milano, è un disastro. Sì. Quindi io dico che il decreto doveva essere più più rigido, severo, più rigido e più severo. E allora, poi prevedere più aiuti per la sanità. Sì, ha ragione chi ha parlato prima. Allora, grazie Michele Brambilla, direttore editoriale del Quotidiano Nazionale e direttore responsabile del Resto del Carlino. Questa cosa di Codogno la dice anche non un a caso, il professor Galli del Sacco, che tra l'altro abbiamo intervistato nei giorni scorsi, lo trovate oggi sui giornali in un po' di interviste, dice esattamente questo. Grazie Michele Brambilla. Dunque ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo, ovviamente con la rassegna stampa.